Ieri era linfa, oggi è veleno. Quel che non è, non è. Livello zero, teatro, l'esistenza, Rante Carovana, la resistenza. Spirito del mondo a contatto. Scia nel cielo, astro splendente, irradia luce ai piedi della foce. Il sole brucia, rende viva la tua voce. Ciclici percorsi, incontri, ritorni, a una nuvola che non ti lascerà. Se resto in gabbia ancora, sedicente evoluzione, dichiara il suo bagliore, poter tutto, sete da saziare, insidiosi poi lasciare.